signori e signori, buone visioni. Arrivederci. Carissimi amici di Iceberg News, un raffreddatissimo, un afono Aleger da Paolo Travagnin e Marino Midena, ed eccoci giunti, ennesima puntata questa sera di Iceberg News. Scusate, ma ogni tanto anche a me capita, sapete, i freddi, i caldi, eccetera, eccetera. Comunque, immediatamente i contatti, contatto telefonico 339 39 90 836, chiaramente per essere con noi by telephone. Per quanto riguarda il contatto telematico, usatissimo in questo ultimo periodo, info@icebergnews.it, naturalmente desumibile dal sito www.icebergnews.it, che vi invito a controllare immediatamente perché la nostra visibilità si sta espandendo a macchia d'olio e ne vedrete delle belle, una novità. E per quanto riguarda invece il vostro materiale, che ci arriva chiaramente sempre copiosamente, e di questo chiaramente vi ringrazio veramente di cuore, e potete inviarlo a Iceberg News, all'attenzione di Paolo Travagnin, via Ennio Bonifazi 36/500167 Roma. Immediatamente passo la parola a Marino, il buon Marino in regia, che ci espone cosa abbiamo questa sera con noi qui. Marino! Sì, Paolo, hai ragione, è una puntata molto ricca, avremo come solito gli appuntamenti con le news, musica e motori, avremo il contributo video, un cortometraggio molto interessante che ci viene offerto dalla Scuola Nazionale di Cinema di Via Pannisperna, il corto è Cent'anni lunghi un sogno, realizzato da Domenico Grassi e Jonathan Van Putt. La caratteristica però di questa puntata è che ospitiamo una compagnia teatrale che sta per andare in scena al Teatro Agorà dal 4 dicembre, quindi un appuntamento per i nostri telespettatori. Lo spettacolo è L5S1. Vediamone un pezzettino insieme ad Aurelio Levante e Serena Troiani. Certo, è strano, eh? Lo sai che sono quasi 2 settimane che ci troviamo tutte le mattine qui alla fermata dell'autobus. Tu il 29 ed io il 14. Eh sì, certo, è strano. Un tipo come te che va con l'autobus. Per via della cervicale, sai. Da quando mi hanno dimesso dall'ospedale, il medico è stato perentorio. Niente scooter. E siccome io lavoro in centro... Già. E tu, invece, che strada fai? Pochi passi e l'autobus mi ferma a pochi metri dal mio centro. Che buffo, non trovi? Io vado in centro e tu vai al tuo centro. Due parole uguali, però posti diversi. Beh, anche io e te siamo due esseri umani, ma diversi. Molto diversi. Perché tu sei una donna e io un uomo. No, saremmo diversi anche se appartenessimo allo stesso sesso. Aurelio Levante, Serena Troiani, ecco. Ciao, qua. Paolo. Grazie mille di averci offerto questa pillola. E invece adesso per i nostri amici un consiglio per gli acquisti. Sentiteli, senza di loro non potremmo essere qui. Eccoci qui, rientrati in Iceberg News. E immediatamente, come nostro uso e costume, carta e penna, perché abbiamo la nostra solita opportunità lavorativa. Opportunità lavorativa per due hostess per il prossimo Motor Show. È una notizia che avevamo già dato, ma è in scadenza. Perciò le ragazze, le hostess che volessero partecipare e guadagnare anche una bella cifretta, che non vi svelo perché la dovete conoscere sempre contattandoci, ve la potete leggere e informare su valentina@711rsm.com, che vedete in sovrimpressione. Perciò in bocca al lupo per quelle ragazze che rientreranno nelle fortunate al Motor Show. Marino, ti vedo già pronto con l'ospite, con il caro Aurelio Levante, che ci delizia con le sue novità. Sì, infatti, dici bene, Paolo, qui Aurelio Levante. Abbiamo già visto una pillola di questa commedia che tu porti al Teatro Agorà a Roma dal 4, mi ricordi? 4 al 16 dicembre. Bravo. E L5S1, di cosa si tratta? L5S1 ha un sottotitolo brevissimo che si intitola Perché Yoga? L5S1 è il richiamo alle vertebre lombari e sacrali, no? la quinta lombare e la prima sacrale, che è quella che più o meno fa sento già scricchiolare, ecco, mi sento un po' già più giù. È quella che diciamo dà problemi di sciatalgia e lombare, diciamo. Qui si affianca invece poi il discorso dello yoga, perché lavorando proprio sulle vertebre e su tutta la colonna c'è tutto il discorso dello yoga che va affrontato. Questo spettacolo è stato anche scritto per ricordare il mio maestro di yoga, che si chiamava Pietro Bretto, che tra l'altro è uno dei personaggi citati, sono quattro i personaggi dello spettacolo, e in cui insomma si ricorda la sua figura, il suo insegnamento, la sua filosofia di vita, questa idea di aiutare sempre gli uomini a vivere secondo una parte di corpo, una parte di mente e una parte di spirito. Quindi, fammi capire, una commedia sullo yoga proprio? È una commedia, sicuramente, sullo yoga anche, quindi diciamo tratta con leggerezza un argomento che poi invece diventa anche profondo, perché provoca delle riflessioni da parte del pubblico. Quindi momenti di allegria, di divertimento, con momenti di riflessione. Riflessione. E qual è l'idea che ti ha portato a scrivere, perché tu sei anche l'autore di questa opera? Erano un po' di anni che non scrivevo, l'ispirazione è venuta proprio dalla mia seconda vita, che è quella proprio di insegnare lo yoga, e ho unito le due parti di me, che sono quella teatrale e quella destinata alla yoga, e è venuto fuori questo spettacolo, ripeto, nella citazione del maestro che ho avuto, che mi ha insegnato delle cose importanti e credo che sia giusto divulgare in questo momento. E quindi è un pochino il prendere di petto quelli che sono i tic della vita moderna, le difficoltà dell'uomo. Certo, il modo di affrontarle, no? Sono le problematiche che sono quotidiane, che appartengono un po' a tutti quanti noi, chiaramente affrontandole secondo il criterio dello yoga, che è un po' diverso da quello che siamo abituati a pensare. Quindi potrebbe essere un consiglio per gli acquisti, cioè praticate yoga? Venite a vedere lo spettacolo, poi decidete. Questa è la prima cosa. Poi decidete, dopo lo spettacolo, se vi ha convinto di praticare yoga, perché quella è una strada personale e anche molto impegnativa. Devo dire. Quindi un discorso serio e allegro, mi sembra di capire. Quindi, ripetiamolo per i nostri telespettatori, Teatro Ancorata dal 4 al 16. Dal 4 al 16 dicembre, tutte le sere alle 21.15, la domenica alle ore 18, lunedì riposo, il titolo L5S1 perché yoga. Chiaramente non sono da solo, perché mi affiancano degli attori in questa commedia, l'ho scritta, ci recito, faccio anche la regia, però ho altri tre compagni di lavoro insieme a me, che una è la ragazza... L'abbiamo vista, Serena Troiani, bravissima. E poi chi sono gli altri? Gli altri due sono Gennaro Iaccarino e Claudio Gnomus. Che però svegliamo al nostro pubblico, vedremo tra qualche istante, perché ci regalano un'altra pillola. E quindi a tutti, per vedere l'opera intera, appuntamento all'Agorà. Vi aspettiamo in teatro. Adesso tu non ti allontanare, rimani insieme a me, perché dobbiamo vedere insieme un cortometraggio della Scuola Nazionale di Cinema di Via Panisperna, 100 anni lungo un sogno, di due giovanissimi autori, Domenico Grasso e Jonathan Van Putt. Quindi vediamocelo insieme. Lewis. Sento che ormai siamo vicini a cambiare la storia per come la conosciamo. Appena venni a sapere di ciò a cui state lavorando, sentì dentro di me i sentimenti provati in passato, quando anch'io perseguivo il vostro stesso scopo. Ahimè, la vecchiaia ormai non consente di spostarmi con lo stesso estro che mi faceva correre in gioventù. Per questo ho deciso di inviarvi il materiale che costituisce i risultati degli esperimenti da me condotti, sperando che siano utili per il vostro lavoro e per la storia. Aspetto ansioso di vedere cosa riuscirete a portare a termine. In amicizia, Edward Muybridge. Avevo pensato di chiamarlo L'uscita dalle fabbriche Lumière, in onore di papà. Cosa ne pensi? Alla fine ce l'abbiamo fatta. E noi l'abbiamo preso. Cosa? Di cosa stai parlando? Del Gran Café di Parigi viene proiettato L'uscita dalle fabbriche Lumière. I fratelli Lumière non sono presenti alla proiezione, forse perché troppo stanchi o troppo emozionati. Subito dopo, i Lumière diffondono la loro macchina da presa per tutta l'Europa, aiutando lo sviluppo del cinema. Marzo 2007 viene proiettata il corto Cent'anni lunghi un sogno di Domenico Grassi e Jonathan Van Poole. Il resto deve ancora essere filmato. Eccoci qui di nuovo in studio perché è il momento delle news, come dice Paolo, quindi carta e penna perché c'è un'opportunità importante per chi vuole partecipare a una commedia musicale, attori e attrici che sappiano però ballare, perché stiamo parlando di un musical, in particolare l'ultimo musical di Cesare Vangeli come Ginger e Fred. Il cast sta per partire, quindi consultate subito la vostra esperienza di ballerini e mandate un'email a pressoffice@tiptapshow.it. Quindi in bocca al lupo, speriamo di vedervi on stage, come si dice. E rimanendo proprio sul palcoscenico, noi tra poco avremo l'opportunità di vedere al Teatro Agorà dal 4 al 16 dicembre la nuova commedia di Aurelio Levante, che è qui accanto a me, L5S1, sì. Difficilissimo, sembrano a battaglia navale, L5S1, so che però ci regali un altro pezzettino. Sì, un altro pezzetto stralciato dallo spettacolo, in scena non sono io, sono gli altri due attori, adesso vedremo Claudio e Gennaro, che interpretano rispettivamente Freddy e cognomi, Pietro. Di anche i cognomi, Claudio. Claudio Gnomus e Gennaro Iaccarino. Benissimo. Che interpretano rispettivamente Pietro e Freddy in un altro momento, in un altro momento dello spettacolo. Vediamocelo insieme allora. Ah! Ah! Se n'è andato? Ah! Ma lei che fa? Gioca a fare il mago che appare e scompare. Mi piace così, fa più effetto. Poi guarda, considera che io già ero cretino. Poi ho studiato 3 anni per diventare cretino perfetto. Senti, io parlo volentieri con la gente, però alla mia età non sopporto più il contenzioso. Poi quando sento queste corbellerie, guarda. Ma che hai? Sei tutto ciondolante. La schiena. Un dolore che parte da qui e arriva fino al tallone. Non riesco a mettermi in posizione eretta. Non può capire. Dammi del tu. Come scusi? Ah, costo scusi, dammi del tu, ti ho detto. No, va bene, va bene. Anche lei se vuole. Ma te lo sto già andando da un po' di tempo. Prendi un po'. Ah! Sei messo proprio male, eh? Grazie. Lo sapevo già. Che intendi fare? In che senso? Non capisco. Ah, sei duro come la schiena, devo ripeterti sempre le cose 2 volte. Dico, che intendi fare? Ma veramente... Sei sempre così? Ho capito, sei indeterminato. Tu pensi delle cose, ma non hai il coraggio di dirle. Anche se le cose che pensi, pensi che siano giuste, giusto? Mi sa che non ho capito. Non fa niente. E che cure fai? Riposo assoluto. Ah, è omeopatia, per via che la mia ragazza... Ah, tu sei il fidanzato di Raffaella. Sì, perché la conosci. Eh certo, benissimo, mi ha parlato anche di te. Tu sei Attilio. Come Attilio? E chi è Attilio? Attilio, il fidanzato di Raffaella, un pezzo dopo me l'ha detto lei, sei tu, no? Ma io e Raffaella siamo insieme da tanto tempo, ma forse si sbaglia. No, no, è proprio lei, guarda, è proprio lei. Ma allora lei c'ha un altro? E da quanto? Stavo scherzando, scherzavo. Tu sei Freddy. Per un attimo ho temuto il peggio, già mi sentivo tradito. Comunque, senti, adesso c'ho da fare, me ne vado. Salutami Raffaella se la vedi. Ah, senti, una cosa, se ti serve qualcosa, compra della tanti negozi sono aperti a quest'ora. Grazie, grazie. ...che ci hanno deliziato con questa pizza. Però accanto a me abbiamo... un altro personaggio molto molto interessante, perché è niente un po' di meno che il curatore un po' di tutta la manifestazione, Sandro Torella. Sandro Torella, che è qui accanto a me, e ti ringrazio di essere qui con noi. Grazie a te. E ti volevo chiedere immediatamente un po' di spiegazione, insomma, con questa rassegna di drammaturgia in contemporanea. In contemporanea, cioè, come mai? Perché praticamente sarebbero dei testi di drammaturgia contemporanea fatti a 2 e 2 contemporaneamente in 2 sale diverse nello stesso teatro, che è il Teatro Agorà. Praticamente 2 spettacoli a dicembre, 2 spettacoli ad aprile, 4 gruppi, 4 compagnie che si uniscono in una sorta di, chiamiamola, federazione, piccolo unione. Insomma, il teatro è un po' difficile da farsi, abbiamo la possibilità, unendoci, di fare forse un passo avanti. Interessante, ecco. E questo è uscito dalla tua... Dalla mia mente, ne abbiamo parlato insieme con Aurelio e abbiamo deciso di fare insomma questo passo. 4 spettacoli? 4 spettacoli, 2 a dicembre, uno è L5S1 di Aurelio Levante, l'altro si intitola Io in quanto tutto, di e con Riccardo Graziosi. È un monologo, è uno spettacolo un po' diverso, ecco, diciamo, rispetto a loro, che invece è una commedia. E gli altri 2 spettacoli ad aprile saranno Nessuno può tenere baby in un angolo, che è scritto da me con Simona Mendola, e l'altro si intitola Con chi, di Valerio Malurni. Altre 2 situazioni diverse, per cui diciamo... Perciò non solo organizzatore, ma anche attore, autore. E autore. Sì. Benissimo, complimenti. Grazie. Complimenti vivissimi. Io ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie a te. Ti chiedo di rimanere così, magari per l'ultima tranche di Iceberg News che a breve vedrai. E do la parola a Marino, perché ci ricorda una delle nostre iniziative molto interessanti e che sta già riscuotendo un certo successo. Vero Marino? Sì, sì, stai facendo riferimento a Torto, cioè Corti in TV, questa nostra iniziativa che vuole promuovere i cortometraggi nel nostro contenitore Iceberg. Abbiamo chiamato Torto questa rubrica perché in qualche modo pensiamo di rendere giustizia a tanti filmmaker che producono dei bellissimi cortometraggi che il grande pubblico però non è in grado di poter vedere perché non c'è una vera programmazione di cortometraggi in Italia. Quindi pensiamo che i registi, gli attori subiscano un torto e noi cerchiamo di porre rimedio. Se volete partecipare a questa iniziativa che sta riscuotendo notevole interesse, non certo per merito nostro, ma per la fattiva collaborazione dei nostri due partner che sono eccellenti e che quindi danno spessore a questa nostra iniziativa, che sono il mensile, il Free Press, che trovate nei migliori cinema, 35 mm, dove trovate tutte le informazioni sulla programmazione, quindi tantissime notizie, e l'altro partner è il settimanale, che è veramente una Bibbia a Roma, che è Roma C'è, che ci stanno aiutando a promuovere questa iniziativa. Quindi grazie a 35 mm e a Roma C'è, e grazie a voi, mandateci questi cortometraggi. Dove? Ve lo dico subito, alla casella postale, indirizzo Marino Midena, casella postale 4205, Roma Appio 00182, Roma. Quindi aspettiamo, stanno arrivando tantissime, faremo tanto per voi, speriamo, e voi regalerete dei bei momenti al pubblico che ci assiste. Paolo, eccoti. Ricordiamo anche che sul sito di icebergnews.it possono trovare un po' l'escursus, il motivo, il regolamento come mandarci i corti, la liberatoria che ci serve. Certo, ma a proposito di collaborazioni, io volevo anche ricordare a me, soprattutto graditissima collaborazione musicale con Dune. Dune che è, oltre ad essere un meraviglioso ristorante, il dunerestaurant.it, che per chi volesse dargli un'occhiata in internet, sopra, ma sotto c'è, è aperto ed è attivissimo il Dune Club. Dune Club che è un locale tra i primissimi in Roma soprattutto, che propongono musica di qualità, musica di altissima qualità, con ingresso gratuito, senza tesseramento, senza obblighi. Perciò ragazzi, io vi invito a consultare il sito, e non solo il sito del ma anche il sito di Iceberg, dove poter anche scaricare il programma, che naturalmente è graditissimo ai nostri che amici. Che cambia ogni sera dal martedì alla domenica, mi sembra di ricordare. Esatto. Perché questo vulcanico direttore artistico che è di Stefano Malatesta, che salutiamo, che sappiamo che ci ascolta sempre, è sempre con noi. Perciò grazie, e facciamo sì che il Dune diventi un punto di riferimento interessante, perché lo è veramente. Cioè, quindi veramente un consiglio importante. Posso farti una proposta, Paolo? Sì. Siccome stiamo andando verso la chiusura finale, sì. E io inviterei la compagnia di L5S1 e qui accanto a noi, Aurelio Levante e la sua truppa. Eccoci qua. Cerchiamo di stringerci. Venite. Ci siamo tutti? Ecco, esatto. La famiglia di Iceberg si è allargata. Aurelio Levante, ecco, Serena Troiani, Gennaro Iaccarino, Claudio Gnomus e di là Sandro Torella. Esatto, eccoli con una bella panoramica. Fai gli onori di casa, dici i ruoli e che cosa svolgono all'interno della commedia. Pietro, inserviente dell'Istituto di Riabilitazione. Claudio Gnomus. Anche grande maestro di yoga. Questo era un aspetto importante, perché sia tu che lui siete due maestri di yoga. Sì, nella realtà, nella lezione, lui lo è anche. Pietro è una doppia veste, è inserviente ma anche maestro. Ah, okay. Poi invece abbiamo un Freddy, un malato lombo-sciatalgico. Ti comprendo. Dolorante. Serena, ovvero Raffaella, nella commedia, e non la racconto perché c'è un po' di intrecci, un po' particolare. Anche lei insegnante yoga nella storia. Comunque la mia leva preferita. Esatto, la leva nella storia. Questo già fa presupporre qualcosa. qualche Alfredo invece, un politico rampante che poi avrà una crisi, anche lui dolorante invece, una cervicale. E stai per fondare un partito. E sto per fondare un partito. Benissimo, quindi uno scoop al Teatro Agorà. Paolo, chi c'hai accanto? E invece Sandro, che come abbiamo già sentito è un po' la mentis organizzativa di questa manifestazione, nonché autore e attore. In uno spettacolo che sarà messo in scena ad aprile. Perfetto. Per ora ci abbiamo a dicembre loro. Esatto, allora io ricorderei intanto le scadenze di questo spettacolo, perciò dal 4 al 16 dicembre al Teatro Agorà a Roma, via della Penitenza 33. Non abbiamo detto che Aurelio ha compiuto un piccolo compleanno con questa opera, perché è arrivata a quota 10, giusto? 10 spettacolo. Decimo spettacolo, tutti autore... Autore e attore. Cioè non trovi nessuno che scrive per te, in pratica. Sempre c'è di... speranza. Ah, ecco qual è il segreto. Diciamo che sono un po' difficile di carattere. Ecco. Però... Perciò... In realtà, e gli facciamo un bel augurio. Sì, noi siamo tifosi di Aurelio Levante perché è un artista infatti l'abbiamo creativo. Portato spesso nelle nostre abbiamo avuto ospite indimenticato con le pillole che speriamo che ci voglia riproporre presto e quindi ci fai questa promessa. Ecco, le pillole di Aurelio sono indispensabili. Quindi un consiglio a tutti, andate a vedere lo spettacolo al Teatro Agorà e poi in contemporanea, che è un po' un gioco di parole. Sì, in contemporanea l'altro spettacolo di Riccardo Graziosi si intitola Io in quanto tutto. Perfetto. Allora noi ci avviamo verso il saluto finale. Ricordo chiaramente ai nostri amici a casa che settimanalmente potete trovare Iceberg News su Televita alle 19.35 il sabato, ma la settimana successiva siamo in onda sui satelliti Sat 8 e Sat 9 il lunedì e il mercoledì alle 24 e in una pletora di web TV che a breve saprete, ma si stanno moltiplicando. Ricordiamo solo la 8 il mercoledì, che è in chiaro, quindi esatto. Un'altra opportunità di vederci. Esatto, perciò noi coralmente potremo teatralmente potremmo lanciarci in una il nostro grido di battaglia che è Alleger, se lo possiamo perciò fare tutti a un 3 1 2 3 Alleger alla prossima settimana, ciao.